Oscar! Oscar! Diremo vaya subrader, bomboscar. Cuando villa bomboleta, bomboscar. Copo mura, como espacamos su bomboscar. Que se la castiga pasiendo bomboscar. Diremo vaya subrader, bomboscar. Cuando villa bomboleta, bomboscar. Copo mura, como espacamos su bomboscar. Que se la castiga pasiendo bomboscar. Sañamo a nota, parta esta feta. Y se la cibra de zombana, copo mureta. Guarda en el lucha, es senza fritta. Cacciamo sta bombulette, spacca con banco, pasto mura moto dica, moto canta se da huevo io non c'è pazza. Alla compa, che gira sta notte, si anda ne bagno, canta in simo te sfotte. Sendo bomba arriva ca, chi se va di membara, bomba scarta un coppo, tutto mure fa varia. Bomboletta, mazza ma cruta da umiltà. Ai te mare muova ca, per si da bomba scarta. Muova si ma giuna, inizio male a Luca. Mentre si rullo, vira moto fa ballare. Ritmo, danza, arte e tanta verità. Allora se ti piace Luca forte Bomboscar. Se da DJ flippo come Luca Bomboscar. Se la vi facendo come canta Bomboscar. E muoio ora un consiglio senta me. Diremo vaglio su brother Bomboscar. Quando viglia bomboletta Bomboscar. Dopo mura come spaccamo su Bomboscar. Che se la cattiga facendo Bomboscar. Diremo vaglio su brother. Y es la noche, la forza es quien aposta. Veniendo roba cada roca, escrita roba cada espaca. Arcor anda la saca con papi de marcha. Zero roba, fiaca, solo roba cada straccia. Que esa es la roba a la bomboscar. Che te spande un buco de culo como sponde. Tu se mure de secure, nange sono cazzo pe nessuno. Cuando le sciacca del capa con la bomboleta de color scuro. Un stile sempre puro, quindi mo a musciure che piglia l'angula. One you. Se mi connessione, un racket doppia H. Non c'è mancanza che mostra groovy.